Allora, eccoci qua, torniamo in voce perché, come avevo annunciato all'inizio trasmissione, abbiamo ospiti in studio e non solo, anche al telefono, qualche rappresentante degli AK-47 per essere giusta, insomma, per non levare niente a nessuno. Come ormai sapete, come dicevo poc'anzi, dopo questa nuova uscita, dopo veramente un bel po' di tempo, vi siete fatti attendere questa canzone, in un periodo appunto a noi nella radio ci avete subito toccato il cuore, perché appunto un brano che parla di Genova, insomma, come raccontavo qui oggi è giovedì, Alberto faceva tutti i giovedì la sua trasmissione, già si sarebbe stato qui a girarsi per questi studi, perché poi il giovedì Alberto faceva la trasmissione, insomma, parlavamo così di questa mancanza, di questa infamità chiamata galera che ha colpito dopo Genova e non solo. Allora, intanto benvenuti. Ciao. Grazie, ciao Marta, ciao Michele. Ciao Renato. Chiaramente la domanda, appunto, visto che non è che sono passati esattamente un paio d'anni dall'ultimo pezzo, come vi è così, vi si è riaccesa questa scintilla? Ma parlo io, Michele, o parli te? Che dice? Vai Renato. Ah, ok, vabbè, innanzitutto un saluto a tutti, anche a tutti gli ascoltatori. Mi fa molto piacere avere questo spazio, così riusciamo anche a comunicare a voce oltre che con la musica, che però è forse la cosa che ci riesce meglio, per la verità. Però niente, insomma, la tua domanda ce la fanno in tanti. In realtà dal 96 non abbiamo più fatto nulla, salvo i concerti dopo l'uscita di Fuori dal Centro. E devo dire che questa cosa, insomma, andava avanti da tanti anni, perché siamo stati presi da 3.000 altre faccende che si diventa grandi la musica, un po' come tanti, diciamo. Poi però in realtà la cosa vera che ci è successa e che in questo momento ci sta continuando a succedere, perché l'uscita del pezzo ci ha un po' rivitalizzato anche in termini creativi, è che le cose che avevamo dentro le volevamo dire, essendo quello il nostro modo con cui ci esprimevamo tempo fa, abbiamo trovato nella strada della musica una strada quasi obbligata. Che il discorso di Genova, diciamo, lo ritiriamo fuori dopo tanti anni, ma lo ritiriamo fuori perché in realtà ce lo siamo sentiti dentro per così tanto tempo che alla fine non abbiamo perso la necessità di parlarne. Questa è una cosa che probabilmente chi ha fatto un percorso di impegno, di militanza, eccetera, la porta dentro come noi, e quindi abbiamo voluto continuare ad affermare alcuni punti fondamentali, che poi sono i punti che ascolterete nel brano. Non so se il brano l'avete già mandato oppure lo dovete mandare ancora. No, ancora lo dobbiamo mandare. Ok, e cioè il fatto che secondo noi Genova non è affatto finita, nel senso che ha lasciato dentro un po' come una radice che si è in qualche modo sedimentata, una serie di emozioni che vanno dalla voglia di riscatto alla paura di scendere in piazza, quindi con una gamma ampissima di lascito, diciamo. Il fatto è che quello che è successo nel 2001 è stata una sospensione dei diritti umani, della democrazia in un paese occidentale. La violenza della polizia è qualcosa che non si è vista in quasi nessun altro paese d'Europa, se non forse in Turchia. Ma le immagini di Genova ce le abbiamo un po' tutti sotto gli occhi. Diciamo che quello che è successo, secondo me, è veramente una roba su cui la risposta democratica, diciamo, per non voler andare a scomodare, diciamo, i nostri ideali, diciamo, per rimanere semplicemente nel terreno della democrazia, è stata veramente insufficiente. E quello che noi abbiamo voluto dire con questo brano è quello che sentiamo dentro da 12 anni, diciamo, e cioè che troppo poco è stato fatto e che forse sarebbe opportuno che si prendessero dei provvedimenti, che ci fosse un movimento nuovo di rivendicazione di provvedimenti, appunto, che rendano questo paese più civile, almeno sotto il profilo degli abusi della polizia. Noi pensiamo che in quei giorni sono stati compiuti degli abusi gravissimi, che appunto non hanno precedenti se non nella storia del fascismo in Italia. Delle vere e proprie torture, direi. Come? Delle vere e proprie torture. Dico delle vere e proprie torture, quindi anche su questo appunto voi citate tante cose, voi citate non solo Genova, poi tra le parole del brano scorrono anche altri eventi della triste cronaca della violenza della polizia nella nostra città, ma anche altrove, insomma sono tanti i casi, lo sappiamo. Sì, no, ma infatti hai detto bene, la tortura e anche quelli che poi invece sono i provvedimenti più burocratici, no? Penso a quando citate il numero sulla divisa, no? Che sicuramente non è la soluzione, però casomai è una di quelle cose che si potrebbe fare da qui a breve e non si fa, e comunque si legge nel segno del fatto che dimostrano che non c'è poi una volontà dello Stato di provvedere. Sì, no, allora innanzitutto è chiaro che in questo momento c'è un movimento di spinta sulle tre leggi, no? Che è un movimento che secondo me andrebbe sostenuto, nel senso che l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento a nostro modo di vedere sarebbe comunque un passo avanti. Poi certo le torture che sono state subite da tante persone nel 2001, ma che poi continuano a essere casi di drammatica prepotenza da parte della polizia in alcune circostanze, come i casi eclatanti di Federico Aldrovandi e di Giuseppe Uva, di Stefano Cucchi e via discorrendo, diciamo sono cose che rimangono e rimangono nella loro triste e drammatica manifestazione, diciamo. Però se si introducesse una legge contro il reato di tortura, almeno non avremmo queste enormità di poliziotti che per prescrizione riescono a passarla liscia. Il codice sulla divisa, che è la cosa che noi proponiamo nel nostro brano, diciamo, comunque è una roba che può funzionare da deterrente, perché ormai le immagini degli incidenti provocati dalla polizia sono quotidianità, e il fatto che ci sia un codice identificativo, se lo sommassimo all'introduzione del reato di tortura, che renderebbe non più prescrivibili certi reati, penso che sarebbe un passo avanti, diciamo, proprio a tutela delle nostre istituzioni democratiche. Poi non è che stiamo chiedendo la luna, stiamo chiedendo un atto di responsabilità perché si evitino atti come quelli che sono stati perpetrati a Genova nel 2001 e che purtroppo per casi differenti vengono a colpire anche persone inermi, come appunto nei casi che ho citato prima e che ci hanno accompagnato nella scrittura del brano. Cioè noi quando abbiamo scritto questo brano abbiamo pensato a Federico, abbiamo pensato a Stefano, insomma sì, ai loro familiari, cioè la sentiamo proprio viva questa necessità, e quindi la vogliamo portare avanti con il modo con cui siamo abituati a farlo. Poi abbiamo scritto questo brano, che spero che qualche contributo minimo lo possa dare, e noi lo mettiamo a disposizione di chi lo vorrà utilizzare in questo senso, diciamo. No, poi mi viene da fare adesso, appunto, continuo le parole su Genova, quello che è stato Genova, anche i contenuti che invece noi abbiamo voluto portare a Genova, e mi riallaccio anche un po' alla vostra storia musicale. E allora appunto a Genova noi anche per questa chiamata al convegno facciamo sempre questo legame, che insomma a Genova avevamo ragione, il sistema che stavamo criticando effettivamente poi ha collassato, è una crisi che ci vogliono far pagare, ritornano tutte le nostre parole d'ordine, non si slegano da niente. E penso che appunto tra i vostri brani c'è stato anche il brano di Silvia Baraldini, e così amaramente sorrido perché poco tempo fa appunto è uscita la notizia che Assata Sakura è stata messa nella lista dei peggiori terroristi, la prima donna ad avere questo onore, dei più pericolosi terroristi, è stata aumentata di $1 milioni la taglia sulla sua testa. Lui, sappiamo, lei sta a Cuba e continua a essere sentita dopo 40 anni un nemico devastante per una persona che continua appunto a tenere tenere alta l'attenzione sui diritti civili, sulle discriminazioni, sulle questioni della galera, che sta dall'altra parte del cosmo, ma non mi pare che ci siano poi tutte queste distanze quando si tratta appunto di classe, quando si tratta di genere, quando si tratta di colori della pelle e via dicendo. E poi la repressione è, diciamo, la stesso mostro che si scaglia nelle diverse forme, insomma. Quindi ecco. Sì, no, ti ringrazio di questa cosa, perché mi dai l'opportunità di dire che c'è un filo rosso, ovviamente, no? Da Silvia Baraldini a Sole di Notte, sicuramente quello che ci anima è un sentimento di giustizia che per troppo tempo viene messo da parte, anche nella superficialità delle informazioni che abbiamo, perché poi sono casi di cui chi si informa è cosciente, ma la stragrande maggioranza dei cittadini magari sa poco, quindi sì, è un filo rosso, e a questo filo rosso ci teniamo, e chissà, magari adesso, appunto, parlavo della nostra vena creativa, cioè, ci proviamo a cercare di fare anche altro, magari qualcosa uscirà, presumibilmente sempre sullo stesso filo rosso di queste esperienze, ecco. Va bene, io so che tu stai impicciatissimo, motivo per cui stai anche intervenendo. Sì, sono un po' impicciato, per devo telefono. Dire la verità, però sono molto contento di poter dire queste cose per radio. Poi, come sai, insomma, la radio per noi è stata anche un po' la casa, no? Certo. Noi avevamo tanti anni fa una trasmissione in radio con Luca degli Assalti e con tanti altri compagni. E il nostro era il terreno della musica. Però con questo terreno abbiamo cominciato ad apprezzare il rap, l'abbiamo incominciato a far sentire per radio, che era una novità, insomma, non tutti ascoltavano questo tipo di musica, e ci siamo subito collegati con quello che il rap portava all'attenzione, diciamo, partendo dagli Stati Uniti e tutto il resto. Quindi sono contento, insomma, di poter continuare a parlare per radio, anche se per telefono. ma io vorrei che pure Michele dice qualcosa, però. Sì, allora io volevo integrare un po' quello che tu hai detto fino adesso col discorso invece della libertà, perché noi la citiamo nel testo più volte, e che la molla che ci ha fatto scattare in avanti per scrivere questo pezzo è stata anche, diciamo, l'esito dei processi del luglio dell'anno scorso, no? Che ha visto infliggere una pena durissima ai manifestanti e poi invece prescrizione dei reati ai responsabili delle torture e delle violenze inflitte a Bolzaneto e alla Diaz. Quindi diciamo anche questa deriva repressiva che si è vista da Genova fino ad oggi, con decine di migliaia di denunce per chi contesta, per chi protesta, chi dissente da questo sistema, è anche questo il motivo per cui noi abbiamo sentito forte la voglia di riscrivere, di metterci a suonare, ecco, questo volevo dire. Beh, poi c'è proprio una sproporzione enorme, diciamo, nei provvedimenti di giustizia, una sproporzione che non si può spiegare in nessun modo, se non appunto col fatto che c'è un apparato che è più forte anche dello Stato. Da quanto mi consta, tra l'altro, il processo ai responsabili delle torture è stato fortemente avversato dall'apparato, cioè il PM che ha istruito i processi contro i poliziotti ha dovuto faticare moltissimo, moltissimo, si è battuto contro un muro di omertà. E questo è l'apparato, un apparato che dai tempi di Mussolini non è cambiato. Mi viene da dire che forse anche più forte dello Stato. Sì, probabilmente, perché più che un apparato, diciamo, nella misura in cui le cose hanno avuto un valore diverso dalle persone, chi ha distrutto le cose ha avuto una condanna, e chi ha distrutto le persone, perché comunque le persone poi ci hanno messo il loro tempo a rimettersi insieme, ha pagato in un altro modo, quindi diciamo che Marta, però io non sono neanche tanto d'accordo sul fatto che hanno distrutto le cose, eh? No, cioè, vabbè, chiaro, realtà, la mettiamo così, se noi la mettiamo così. Genova, le cose sono state distrutte perché c'è, certo, chi ha spezzato un corteo che era un corteo autorizzato. No, no, sicuramente. No, lo sottolineo soltanto perché ci sono alcuni aspetti della vicenda Genova che secondo me rischiano di essere un po' troppo spesso messi da parte, ma non lo dico a te, figurati, certo. Che però ce ne sono due in particolare che mi fa piacere sottolineare. Il primo, appunto, che la devastazione, se escludiamo diciamo i black bloc, non mi pare che siano esattamente l'espressione del movimento, diciamo, però se studiamo alcune cose che non riguardano il movimento, le devastazioni ci sono state soltanto come forma marginale a un attacco, senza ragioni da parte della polizia. No, ma infatti, voglio dire, adesso senza, è chiaro che cerchiamo di dare un nome anche rispetto a quello che poi si legge. Questo è il secondo punto, no? Matta, perché sennò me lo perdo, ma lungi, non vorrei essere frainteso, cerco di dirlo nella maniera più chiara possibile, perché il rischio è che venga frainteso. A Bolzaneto, in quelle ore, in quei momenti e in quei giorni, per non parlare del pestaggio di Mark fuori dalla Diaz e quant'altro, sono state usate violenze per il puro piacere di usare violenza, cioè non c'era nessun giustificato motivo per fare violenza e l'hanno fatto per il puro piacere di umiliare e di farlo. Questo secondo me va sottolineato e non va dimenticato, perché secondo me rischiamo di perdere anche la scala dei valori, diciamo, se lo facessimo. E per il puro piacere di far violenza hanno torturato la gente. Questo non giustifica ovviamente torture fatte per altri scopi, come ad esempio estorcere informazioni o cose di questo tipo, però secondo me è un'aggressione. No, sicuramente noi tra l'altro abbiamo avuto ospiti proprio nelle giornate del luglio dell'anno scorso, abbiamo avuto ospiti dei compagni dalla Germania che venivano a seguire il loro processo come vittime e insomma appunto fanno dei racconti di un trauma psicologico anche che rimane appunto, se vogliamo andare al di là della violenza fisica, e quindi voglio dire, quando dico appunto le persone poi non si rimettono in piedi come le vetrine, appunto siamo umani, siamo appunto le cose tornano a mischiarsi, le parole, no? Siamo umani, abbiamo questa bellezza, ci va di metterci in discussione, ci va di rivendicarci la nostra umanità, di portarcela dietro sempre, di non essere così, non essere presuntuoso, cioè forse ogni tanto sicuramente ci serve, però comunque di non voler avere la spocchia, no? Ci va di analizzarci, di metterci in discussione, di parlare. Queste persone appunto per il desiderio di farlo nella maniera più umana possibile poi si sono appunto ritrovato appunto questo compagno, non mi passa dalla testa, che diceva ancora adesso sono tornato, era la prima volta che mi vedevo davanti dei carabinieri e ho dovuto pensare che alla fine no, stavo venendo per il mio processo da vittima, però insomma mi fa ancora una certa impressione e questo succede, certo, dopo 11 anni, certo. Insomma. Beh, guarda, ti dico, con Michele l'altro, due settimane fa siamo andati a un incontro con Ilaria Cucchi e c'era anche Mark, il giornalista inglese che è stato in coma perché insomma massacrato di botte dalla polizia il giorno della Diaz, e Mark, quando parlava della polizia italiana e raccontava il suo episodio, piangeva. Sono passati 12 anni. Quindi voglio dire, poi siamo un po' tutti stanchi di vedere scene di violenza di Genova, basta, di parlare della violenza di Genova, però non va dimenticato. Mi rendo conto che è uno sforzo brutto quello di ricordare, però appunto non è solo un ricordo, è una radice, lo diciamo nel pezzo, è una radice, esatto. Ragazzi, qua secondo noi ha portato noi a scrivere questo brano, ma porta tanta gente tante volte a pensarci, a ricordarselo, a tenerlo presente. Quindi niente, tutto qua. Allora io credo che bene o male sia arrivato il momento di farlo sentire alla fine questo benedetto brano, che comunque vedo che comunque c'ha un bel numero di ormai è conosciuto, insomma, dai numeri che leggo qua. Ma in realtà per le radio, sì. Non so se Radio Onda Rossa l'ha mandato qualche volta, ma comunque pure qualche altra radio, Radio Popolare, però il veicolo principale fino adesso è stato la rete, e comunque c'è stata una buona risposta, siamo contenti. Sì, purtroppo questo modo di diffonderlo con i canali della rete comporta che uno a casa non se lo può sentire se non scaricandolo su pennetta, insomma magari non è proprio il modo più semplice per diffonderlo, però se le radio lo mandano è un grandissimo passo avanti, quindi fateci un CD. va bene, può darsi che potrebbe essere 45 giri, fare anche un altro pezzo e metterlo un dentro, CD 45 giri in maniera diversa. Ok, allora va bene ragazzi, allora io vi saluto pure perché così rientro, che grazie mille, poi ci sarà comunque ci sarà modo anche poi di rivederci dal vivo, insomma devi tornare qua. Sì, certo. Ci mancherebbe. Allora vabbè, grazie ancora, allora, un abbraccio, saluto tutti, un ciao, abbraccio Gastro a tutti, e mi ascolto un po' per telefono il pezzo e così mi fa sempre piacere, e nel frattempo vi saluto, dai, ciao, grazie, ciao Renà, ciao Michele, a presto, ciao. Fuori dalla zona rossa e a 20 anni a Piazza Limonda, nella bella età di quando tuffi il cuore nel mare, l'amore ti porta lontano per mano, abbassare le frontiere non puoi fermare, sentire l'istinto di andare e gridare contro l'odiatore di un carabiniere, chi l'ha infranto, rotto, messo sotto con ignoranza e tanta prepotenza, l'ha fatta franca quell'ignoranza che è la grande povertà della piccola ridicola Italia che verrà, la divisa senza nome in quella notte cilena è sempre una pericolosa divisa italiana. Restano sospesi nei ricordi di chi c'era, i volti coperti dietro la visiera, la mano vigliacca della polizia nascosta dietro i caschi della scuola Diaz. Genova sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Genova sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Fuori dalla zona rossa, Genova medaglia d'oro per la resistenza, questa è la radice della nostra libertà, la libertà che fa paura chi governa, paura che è più forte anche del senso di vergogna, di stigare militari e poliziotti come cani, prendendo esempio dalle dittature infami, per quante vittime ancora, ma per quante ancora sotto i colpi della polizia, per avere i nomi degli agenti della DIA, resi innocua l'offesa se l'azione è conclusa, il resto è tortura e una violenza ottusa, Bolzaneto era freddo, il cielo ancora nero, da secondini e dottori solo sadismo e veleno, stessa feccia di quelli che hanno ucciso Albertini, fermiamo le torture fuori i nomi degli assassini. Genova sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Genova sole di notte, la sirena del porto suona ancora forte, non è solo un ricordo, una radice, mettete ai poliziotti il codice sulle divise. Che mi ronza il lavoro, che mi strozza il tempo per amare e per sognare, se mi fermo forse penso e se ci penso ricomincio da una rima che mi gira. Genova non è finita, codice sulla divisa, Genova era il sogno veramente, un altro mondo è la nostra libertà che fa paura a chi governa e non si fermava, studi in bash batte più forte coro, non si fermava sto tempo, ma quel sogno non muore, un faro in mezzo a questa vita da corrente di marea, vado e vengo, mi riprendo il vento in mezzo a questo mare, faccio vela, sono ancora una sirena, non era una partita, sempre lì, sempre gli stessi impuniti e promossi, se ci penso ricomincio da una rima che mi gira, Genova non è finita, codice sulla divisa, se ci penso ricomincio da una rima che mi in gira. Genova non è finita, codice su una divisa. Se ci penso ricomincio da una rima che mi gira. Genova non è finita, codice su una divisa. Se ci penso ricomincio da una rima che mi gira. Genova non è finita, codice su una divisa. Se ci penso ricomincio da una rima che mi gira. Genova non è finita, codice su una divisa. Se ci penso ricomincio da una rima che mi gira. Genova non è finita. Eccola qua allora, per chi ancora non l'aveva sentita, invece non solo la può sentire ma se la può anche scaricare andando su SoundCloud, che immagino conoscerete bene, cercando SoundCloud, da soundcloud.com h47/h47, comunque poi è semplice trovarla. Un modo questo anche di appunto usare la musica in un modo condiviso, semplice per tutti. Beh certo, diciamo per noi non è stato, non era cioè, l'obiettivo non era quello sicuramente di ritrovare il successo nel mondo della musica, quindi, ma vabbè, sicuramente era il nostro obiettivo, appunto è quello di dare un piccolo contributo a tutto quello che è girato attorno ai processi di Genova e insomma i ragionamenti che poi immagino avrete fatto tra di voi. Sì, no? Sì, anche vabbè, discutendo, parlando. Sì, sì, vabbè, infatti tutta l'estate siamo stati... Salutiamo tutte e tutti coloro grandi e piccini che sono stati tediati, esatto, in estate con i genitori, con la chitarrina. Con la chitarrina, così tra discussioni notturne sotto il cielo stellato a tirar fuori un pezzo che ci tenevamo sia per le parole che per la musica fosse orecchiabile appunto da un punto di vista musicale, ma anche molto semplice e chiaro dal punto di vista delle parole che volevamo dire, e, anche perché molte volte, specialmente nel disco, quello di Fuori dal Centro appunto del secolo scorso, degli H47, molti pezzi magari erano un po' impliciti, parole, frasi un po' intimiste che non si capiva, dovevano essere interpretate, invece noi ci tenevamo proprio a essere chiari e semplici. E poi la melodia, che questa deriva melodica che ci portiamo un po' appunto da Fuori dal Centro e che è stata introdotta nel gruppo degli H, quando abbiamo loro, diciamo, che io sono subentrato dopo, decisero di aprirsi ai musicisti, e quindi automaticamente è venuta lo stile un po' più melodico, che ci allontana un po' da quello che è il rap, l'hip hop, esatto, che invece appunto, come diceva prima anche Renato, è stata appunto, io mi ricordo appunto c'è stato questo arrivo, il reggae, l'hip hop, questo sbam, poi tra l'altro era tutto arrivato in una situazione anche nostra di studenti, diciamo sociale, in cui c'era la Pantera, il post Pantera, la città era nostra, mi sembra, sì. Noi la sentivamo così. Beh, e sì, quindi questo, e la musica, come secondo me appunto continua a fare la musica fatta così, quindi che c'ha dei testi che hanno degli se non altro degli spunti per riflettere, ma che dicono qualcosa e che appunto poi si accompagna anche con una appunto coerenza, quindi anche semplice trovarla e averla. E appunto tutto questo poi appunto io credo che abbia anche un grosso peso a livello dei appunto i giovani, e la musica è probabilmente uno di quei mezzi di comunicazione pazzeschi, come la radio un pochino non a caso appunto. No, infatti, no, ritornando sullo stile melodico, devo dire che Renato Castro X ha spinto tanto per cercare di mettere su un pezzo più melodico, più orecchiabile possibile. Poi con l'aiuto di Serat, e lo saluto, approfitto, è esiliato curdo che suona divinamente uno strumento che si chiama il saz, è quello che sentite sotto, che dà la linea melodica, il refrain, sempre, sì, uno strumento a corde, ci ha aiutato a trovare appunto una linea melodica bella, e quindi che poi in realtà se ci pensi anche Silvia Baraldini, quel pezzo era molto melodico, sì, anche se il rappato sotto era più incalzante, un po' più urlato, un po' più incazzato, però la base è molto melodica. Vi ricordo che l'assolo vocale di Clementina che parte con il nanna nanna, quindi insomma c'è un filo anche dal punto di vista musicale, secondo me. E allora ce l'andiamo a sentire e appunto io mi emoziono perché insomma mi ricorda tantissime cose. Silvia Barandini, il numero era tra l'altro il numero che lei aveva sulla sua maledetta giacca da prigioniera. Una settima conferenza internazionale. Silvia Barandini, detenuta numero 051-6490-872, carcere femminile di massima sicurezza, Marianna, Florida, Stati Uniti d'America. Condannata nel 1983 a 43 anni di carcere per concorso nell'evasione della rivoluzionaria afroamericana Assad Shakur e per reati associativi di presunta matrice terroristica. Non le sono stati mai imputati fatti di sangue, detenzione di armi, di esplosivi. Ha trascorso 2 anni di detenzione in un'unità speciale di deprivazione sensoria, senza luce solare, in totale isolamento a Lexington, nel Kentucky. Operata 2 volte di cancro squamoso uterino. Silvia Baraldini è una prigioniera politica, una comunista, una combattente per la libertà. Strano silenzio dopo cena sullo schermo, l'immagine ferma. Silvia, le catene alle caviglie in una gabbia. C'è una luce azzurra, un rettangolo fermo. Lo stelcino che passa, musiche e voci monotone dal televisore. E pensiamo a quel compagno fuori. Per tanti anni dentro, ora non più al nostro fianco. Ai domiciliari perché anche i dottori dell'apocalisse riconoscono il suo stato di più niente. Zero, assolutamente niente. Ora a casa da solo, rinchiuso in una camera che già non sto dormendo. Un segno indelebile di un tempo. La cui potenza del continuo è maggiore di quella comune. Il cui scandire tac tica la rovescia. E pensiamo a quella sua camera come una cella. E lui peggio di prima che la reda come dentro. Fuori tutti i mobili e dentro una branda. Perché sappiamo che per lui non c'è più un senso. Forse solo il simulare un'evasione per ogni agognata. E pensiamo dove siete, dove siamo. Quando eravamo 1000, 10.000, 100.000. È possibile che fuori non c'è più nessuno. È possibile che non si sente più una voce, un rumore, un respiro. Dove siete ci sentite, non vi sento. Non sento più nessuno. Fuori dettare un muro. È impossibile che fuori non c'è più un respiro, è impossibile che fuori non c'è più nessuno. E pensiamo che la grande paura è passata. Chissà, i padroni sono di nuovo sicuri di sé. Tornano a sfoggiare i gioielli alla Scala, le pellicce, i loro soldi, le BMW. Fra tanta gente indifferente. E poi le carichi pestaggi, la polizia protegge i blindati come sempre. I tepissi in divisa, casca azzurri e manganelli. E li vedi, sempre presenti in pare di fabbriche, scuole, cimiteri viventi. E così ti trasformi, da somma di contorno, liberando la tua mente. Segue il ruota il corpo che le torna e sale dentro, dopo sale il senso delle cose. E non ce la fa più, sarà affacciata ad un balcone. Così nella minchia ti ritrovi non per gioco, ma perché sale solo la voglia di apparire al mondo per non morire. Come neve al sole, trasformati in bravi automi dalla televisione. Ma c'è chi dice no, c'è chi sfonda il silenzio. C'è chi cerca nella notte libera un rumore tremendo, assordante. Dietro quel fumo nero le guardie. E non girare tra le fiamme continuando a lottare dentro da dentro quelle gabbie. Frangendo il silenzio con tutto quanto sulle sbarre. Allora decidiamo di fare fiaccolata anche se era complicato. Pensavamo uno spettacolo da fuori. Tutti quei fuochi tremanti sul muro nero accanto ai nostri pugni. Sul muro nero accanto ai nostri sguardi. Da fuori tutti quei fuochi tremanti. Sul muro nero accanto a una bandiera. Sul muro nero di questa galera. Ma gli unici che potevano vedere erano solo piccolissimi fari freccianti sull'autostrada lontana, indifferenti. O forse un aeroplano su in alto tra i tanti, distinguendo solo il buio fra le rotte di volo dei venti, volando avanti verso cieli immensamente distanti sopra quei fuochi tremanti. E pensiamo dove siete, dove siamo. Quando eravamo 1000, 10.000, 100.000. È possibile che fuori non c'è più nessuno. È possibile che non si sente più una voce, un rumore, un respiro. Dove siete ci sentite, non vi sento. Non sento più nessuno. Fuori restare un muro. È possibile che fuori non c'è più un respiro. È possibile che fuori non c'è più nessuno. che per un crimine che un essere umano che ne sottomette un altro. Pensiamo che domani sarà come ieri, di nuovo un altro strano silenzio dopo cena ragionando su come apparire per sentirsi vivi. E pensiamo a chi sta peggio se lontani i pensieri, forse come i nostri o forse anche diversi, al coraggio che ci dà il suo sguardo invisibile a chi non vuol vedere perché sono sussurri, pronunciano il nome di Silvia Baraldini. Fuori, fuori, fuori, fuori, fuori. Forse sono un aeroplano su in alto, oltrepassando l'oceano fra le nuvole, leggendo un pentagramma di note d'assalto, ancora un'altra volta cavalcando un sogno. Eccola qua, questa era appunto Silvia Baraldini, sì, insomma sicuramente erano gli anni 90, ecco, non aggiungo altro. Dall'altro poi mi viene in mente un concerto fuori dalle Bibbia pazzesco, e vabbè, in parte appunto qua chiacchieravamo risentendola, è possibile che fuori non c'è più nessuno, è veramente una frase che colpisce, e noi invece ce li ricordiamo sempre, insomma il saluto io lo faccio. Dall'altro appunto sto pensando casomai Alberto, che gli arriva sta canzone a tutte e tutti, che insomma un po' come le scarcerande cominciano a girare, si veicolano tra i carceri, cominciano ad andare e poi ci arrivano le lettere e ci dicono dai, grandi, grandi, questa cosa si aggiungerà, insomma, ne sono certa. Allora, aggiungiamo un altro po' di cose, intanto facciamo una correzione. Facciamo una correzione, che il pezzo si scarica, mi hanno mandato un messaggino, mi hanno subito detto guarda, il pezzo non si scarica più da SoundCloud perché abbiamo raggiunto il massimo dei download, fortunatamente, e si scarica da Bandcamp. Sì, adesso tutto l'indirizzo non ce l'ho, com, comunque appunto sempre in modo molto facile dalla rete, girando a K47 Il Sole di Notte vi escono tutte le informazioni del caso, sì. Semplicemente diciamo che SoundCloud forse non funziona, ecco, così. Sì, no, funziona solo per l'ascolto, il download è stato esaurito come numero di download, che quindi non mi vale male, ecco, esatto. No, volevo cogliere l'occasione per salutare anche i ragazzi Fabio e Alessio dello studio Wax, WAX, che ci hanno sostenuto in questa piccola avventura, e hanno insomma, si sono messi a disposizione per la registrazione, il missaggio del pezzo, e devo dire che hanno fatto un egregio lavoro perché suona molto bene, quindi li saluto, ciao Fabio, ciao Alessio, e saluto gli altri del gruppo, Kid, Martufo al basso, Marta che ha suonato, un'altra Marta. Che ha suonato il sassofono finale sul pezzo, e è un omaggio a Kid, lo facciamo così per chiudere e rimanere anche in tema di quelli che sono i diritti civili anche di chi sta dentro, e volevamo mandare un pezzo di Fuori dal Centro del 96 che si intitola Rivolta e parla proprio di questo tema. Ok, allora io intanto ti saluto, ti ringrazio, insomma è stato veramente bello, anche perché appunto io ero quella che c'aveva qualche anno di meno, invece stava lì, yeah, capito? Quindi tanti ricordi che vengono in testa, e insieme a questo però anche tante idee, no? Di cose che si potrebbero rifare, insomma anche voi siete tornati, chissà. Ma io penso che qualche altro pezzo lo facciamo uscire non tra un anno ma magari un po' prima, speriamo, però guarda che ti sento, vediamo. No ma noi ci teniamo, ormai siamo ritornati così a ballare e balliamo. Va bene, allora io vi ringrazio ancora, abbiamo dato insomma tutti i modi per scaricarvi questo brano, e allora fatelo e soprattutto ascoltatelo bene, rifletteteci su, e chiudiamo appunto con la K47, questo disco del 96, Fuori dal Centro, appunto Una Notte di Rivolta. Di rivolta, rivolta, rivolta. succede pure che la rabbia ti sta dentro piano. Poi piano piano sale tutto questo, ormai solo questione d'ore. Da quanto tempo scelte, non c'ho preghiere, un movimento. Non perdi il senso se non riesci a parlare. Isolamento, braccio della morte, un'iniezione letale. Sta iniziando a contare, basta, basta. Di questo non lo senti, non senti più i lamenti. Ritmo questo è giusto, una gavetta sulle sbarre per volare in alto con l'immaginazione. Sfondare ogni muro di qualsiasi galera fino in fondo, fino all'ultima cella. Una notte di rivolta, è una notte di rivolta fino in fondo, fino all'ultima cella, fino a che un giorno sarà l'ultima volta. In una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta, in una notte di rivolta. Tardissimo, sono le 19.08, quindi io devo scappare da qui, addirittura Onda Tropica non ve la faccio sentire neanche fino alla fine. Lo so che non si fa, ma io lo faccio. Anche perché vi devo tediare con la sigla che parte inesorabile. Tienen que saber que la cumbia es el futuro, así que... E allora salutando tutte e tutti coloro che insomma si sono un po' emozionati anche loro a sentire dopo tanto tempo gli AKQI qui. Tutte e tutti coloro che ci hanno seguito. Io come sempre salutando in particolare tutti e tutti coloro che non possono godere della libertà, della propria libertà, vi rimando a giovedì prossimo, anche se sicuramente so che ci vedremo domani. Al Teatro Valle. La Esquina del Sol. Parole per festeggiare il 36esimo compleanno della radio anche parlando e ragionando insieme. Questo lo faremo appunto domani al Teatro Valle dal 17.30 con... Il 2 di febbraio dell'anno 2003 sta la un convegno insomma in cui parteciperanno tanti tante menti con cui dibattere rispetto a quella che è la repressione che ci si scaglia contro, detto in sintesi. Poi sabato ci vedremo al Volturno invece per festeggiare così in maniera un po' più teatrante. Sol, mangiare e brindare insieme. 87, per quanto mi riguarda chiudo qui anche un po' di corsa. Ciao e a giovedì prossimo. Se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti i giovedì dalle 17 sugli 87.9 Radio Onda Russa. outside the rain is pouring.